Desidero sopra ogni cosa che tu prosperi e sia in buona salute. Come prospera la tua anima, questa è la promessa di Dio. Ho salute, corpo e anima in pace, il Signore veglia su di me, giorno dopo giorno ho salute, rafforzato dalla sua bontà, la mia vita gli appartiene per sempre. Lui rinnova le mie forze, come l'aquila riprendo il volo.